Pannone. C'era i pompieri, abbiamo spento sì, perché mio cognato avevano difficoltà a spegnere, non riuscivano a spegnere. E poi c'è Eurospin, che ci sono i La Mauris, i cinesi e cose. Lì c'è un deposito di climatizzatori, ha preso fuoco quello lì. Ma tu da me, che io sono a chilometri, tutto dall'altra parte della città, questo fumo nero allucinante. Ho detto, ma cos'è? I zingari hanno bruciato qualcosa, copertura. Invece mi hanno detto, mia cognata, no, no, di lì a Mauris ha preso fuoco un capannone, non riuscivano a spegnerlo. Già lo vedo, adesso c'è un avviamento là qua, e viene le conche, ci verrà ancora il fumo, ci verrà. Ora! Sì, allora tu mi è contento che è ritornato 9.35. Ok, aspetta, facciamo rientrare a Mirko, che è un po' in parcheggio da un po'. Avanti Mirko! Buonasera anche a te, come arrivo lì ad Alghero? Già va bene, Muros, come arrivo lì a Muros, Claudio? Gappa gappa, lasciamo scaldare a Gigi. Sono il piccolo, sono io, dai, poveraccio. Gappa, ancora fa freddo un poco, va. Che già va bene così. Sì, era grande anche qui da me. Giulio, un poco di freddo, un poco di freschetto questa sera. Devo scaldare un pochettino le mani. Oh, scusatemi un attimo, interrompo io. Io vado a mangiare, mi hanno chiamato. Dai, vi saluto pure, magari se coincide dopo, dai. Ciao Giulio, ciao Antonio, ciao Mirko, ciao Claudio, eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio quello di causa a mangiare. Ciao ciao. Ok, ciao, va bene. In concomitanza a te, mi hanno chiamato anche a me. Va bene, dai, ci sentiamo domani, se coincide. Comunque, adesso sabbiamo 3-2, speriamo che la volta a reggere, ma ancora ci vogliono 15 minuti per finire, 15 oppure 20 con il recupero. Ci sentiamo, ciao Roberto. Avanti a tu, ancora un passaggio, 2 massimo, e poi anch'io chiudo. Vai a tu. Capo, dai, salutoni, dai, ce la risentiamo alle prossime. Oh, Roberto. Ok, ciao Claudio, allora ci sentiamo alle prossime, anch'io chiudo per la cena, ciao a tutti, ci sentiamo, ciao Mirko, se stai ascoltando, io devo chiudere per la cena, ci sentiamo prossimamente, ok, riprendi pure Mirko, se ci sei, se no riprendi tu dopo te, avanti Mirko. Salutoni Giulia, salutoni a tutti, mamma mia, spaventoso adesso, Cappa, Giulio ci sei ancora, com'è lì alle punte? 9.8, dai, quasi 9.10 praticamente. Cappa, dai, andendi, Cappa, ho messo a posto l'antenna, sono dovuto salire sul tetto. Capo, c'avevo il PL che si girava dentro, il capo centrale. Sicuramente, mezzo difettosi quei PL me li ha dati, adesso li ho risolto. Ok, gatto, bisogna fare attenzione così in quei casi lì, perché si potrebbe bruciare se non la radio. Va bene, ci sentiamo tu, comunque stai andando alla grande, molto bene. Ciao Antonio, ciao ancora amico, se sei ancora all'ascolto. QRT per me, riprendi pure Antonio. Papà, dai, ci sentiamo, infatti vedo che sta corrispondendo forte pure, sta viaggiando di brutto. Ok, dai, ce la risentiamo, ciao ciao. Ciao anche a te Mirko, ce la risentiamo. Ciao Antonio, ok, ciao Giulio. Ciao ciao. Chicos. Yes, yes, yes. pare che tu per caso conosci un Marco Soggio? Marco Soggio, no. Ah, vabbè, ok. Perché? Cosa è successo? Ah, oh, niente, niente. Capa. È bello, a posto. C'era proprio quel... come si chiama? Quel fuoco a Bredaniera. Ho visto, è scoppiato il capannone dove fanno i condizionatori. Il servizio gas è micidiale, è molto infiammabile. Sì, è una fabbrica di candele. Insomma, si è fatta fatta apposta. Adesso fa. Quanto sterilizzare la dea oggi? E beh, come sta la pompa? Un po' giù, vero? Un po' giù. Si prende le macchine della medicina per 6 giorni. Ma te l'ho fatto gratis o hai pagato? Quanto hai pagato? No, gratis, la medicina ho pagato. Quanto hai pagato? Gratis. Tramite il canile, no? Ah, no, se lo fai dal veterinario mi devo pure 30 euro. E fai pure 2,50. Ma non è che stavo utilizzato. 150 euro, 250, 300 euro ci vogliono. Già sono un po' curato, già. Un intervento è sempre. Però è un motto. Chi si va per un buca, il governo? La regione. Certo, te lo porto perché tu c'hai il reddito basso. No, perché ho preso la canile. Ah, ecco perché te l'hanno fatto. È piccolino, noi. Oggi ho passato, non so, con lui. Ed era serrato lo circolo. E quando? Poco fa. Quando? Poco fa, sono passato. E sono state le 8, neanche le 8. Era già serrato. Dea! Vuol dire, non era nessuno, cosa ne rimane a fare? Ma per curarsi con questo travagliente. Questo tipo, allora, aspetta. Nanna te. Praticamente questo tipo di 30 anni presta sangue alla mamma. Cioè la madre la presta sangue alla caletta lì a Nuoro. Coglioni che è un tipo di 30 anni. Cosa ha fatto? Mi ha prestato la mamma a sangue. Ma un bastardo di merda, l'avrei arrestato. Cioè, alla persona che gli ha dato la vita. Ma gatto te l'abbia accutugato in galera, ma sempre. Sto scherzando, sai. Sta vicinando a carità, ragazzi. Esiste gente di merda. Deve essere gente di base qualche tossico. Gli ha negato i soldi. Questa è la picchiazza. Quindi, ma in galera cazzo l'ammazzano. Spero che l'ammazzo, ma ricordiani me puro. Ma ti vado ad accudire a mamma Giulia, ma di cosa se mi fa vedere? Bah, gente di merda. Ma tu sei così, c'è nulla a fare. Tu se ci sono, allora. Cosa vuoi che sia? È proprio il cervello che ragiona male. Sì, ho capito, cazzo. Il cervello ragiona male, andiamo a mamma Giulia, ma la fatti da un ponte. Ci sei venuto di là, cazzo la fura. Ma non tocca a mamma Giulia, no? Sì, se c'è qualche lì, qualche parente lo fa. La ciappo ci epideggia. E vedete se poco poco ne sanno in galera che ha cotto la mamma. Non sono, la mica è più pezzo di mezza. Cioè se c'è quello bravo che gli si gode non ripiate i cudini. Cudini, ammazzami! Fatto quei cudini, Una bella lezione, già ci vorrebbe. Una solo. Capa. Cazzo mamma, in gli sroco però lui, non è niente. Niente stronza, Cioè. Stamattina sono andato a scoprire che un paio di persone lì dentro, cioè sono andato a un altro circolo e era caduto il debito. Non ho capito, circolo. Poi se ne sono andato un altro circolo e gli hanno lasciato il debito, gli hanno lasciato a Costantino, cioè veramente la gente è veramente miserabile. Ma che Dio non ha questi problemi, ma fu tassare, ma più mai che ne hanno dato un burro. Un giro, sai che si ha fatto fa? Ma la madre ha detto che abbiamo un reddito di cittadinanza, provava da anch'io, da voi. Vedo niente, mi ne niente miserabile. C'è una, c'è una. La carità, che. Ma già lo sa lui. Più male tu. E basta, ha detto, mi sono bagaglio da voi più, No, basta un anno di più. Quando è così, basta fargli fare un giro e boh. Andiamo a rimanere di cui si attinco 6 euro, 10 euro. Cioè, niente, 60 euro. Ma come fai tu a risanare i conti con quelle cifre? Cazzo, ogni volta che c'è a me, chi tu che ti ha regalato, ma cazzo, la puoi pagare da me. Non ne ha puttinuta. Beh, è normale. Quanto è che ce la puoi pagare, ma pure tu la devi pagare, no? No, ma non è un tornaconto così neanche, perché tu cominci, facciamo anche, cominci 60 euro in onghi, 50 là e 30 qua, cazzaro mesi sono vedete in ambe, che si pone di pusciacara, e non è meglio che mi viene, mi paghi e te la begli in culo. Lo so. Purtroppo un casino. Un casino. Se non vi muoiono una pezza e tu andai in oramara. Sì, vabbè, comunque. Che mi guadagna i dina. Quasi un caravocchetto. Non paga nessuno. Ci guadagna, ne guadagna. Ma se sai a fare queste cose, cioè lui che si guadagna niente da uno, cazzo te lo pone nell'altro, sei sempre di sotto, sì. Ma sono segnati. Allora, cioè, sono veramente incredibile, ragazzi. Ma ti lo che vado nei gusti. Un amico mi ha bruciato, un mio amico c'ha il ciclo qua al monte. Ah, basta sarra, se non vuoi no, dimmi, cazzo a rubare, scusami, a rubare come ti vattene? Bene, va che ti innande, ma che fa pure di cosa, la colpa la sua a me. Picca la mia. Via va bene così, cioè ma se va bene a loro, contenti loro. No, no, no, a casa mia, c'è la Santo Romeo, tu, no, che bene, paghi la roba e ti innande. C'è una cosa che ti voglio regalare, io, un'ampulla di birra che mi hai fatto un piacere, che mi sei simpatico, è una goccia. Cioè, cazzo, se tu, invece, vuoi, cioè, se tu vuoi la buffo, no, non ci siamo, piglia, piglia, piglia e ti innande. Ciao, la buffo, e fammi il puglione. Vabbè, andare a B è un lusso, è un lusso che ho pagato. E poi c'è gente che lo fa. Lo fa adesso a manca da voi. Che non lo so. E cosa ci vuoi fare? Purtroppo, un casino. Che programma cale a taglia 1? Tipo colorato, cos'è? Oh, finalmente è ritornata lei l'antenna. Non fumare. Sono mia. Un casino che non posso manco passare, a me la vulcanizzare il PL. Un casino veramente. Ma perché ti entra acqua? Sì, ma non più come sa con le stazionari. Ho abbagliato il PL. Se no, se non la potevi fare, potevi prendere una bomboletta di quel grasso spray e glielo buttavi sopra. Mi sa che compro la Keymaster, l'originale. Dai, lascia la mano qua, un die. Non si sa mai che ti venga a desiderio. Allora, no, mica funziona la Keymaster. Lascia la mano qua, lui. Ma la mano qua, l'ho pulita, smontata e pulita. L'avrei smontata, l'avrei pulita. Ti va rifatti. L'avevi fatto, non ti preoccupare. mezzi quelli che ci hanno avuto non me ne hanno parlato bene. Dice che dopo un po' di tempo si tronca. Dipende dal vento, è vero. E vabbè, le tariche stanno anche bene. Vabbè, la mantova, la mantova. Rimane lì, la bolla boccio, la rifai tutta, ce la ripiatti e sei sicuro tu ogni volta che tu attacchi il PL che lei non ti darà mai nessun tipo di problema. Ah, beh, lo so. Già lo so. Se lo buoni nuovo, se lo vuoi buoni, li buoni tutti in giro, lo grasso, le cose che mi buoni. La seconda oggi demontato Vito era ancora lucido dentro, non ne farà un filo d'ebano è entrato, gli ho messo la vasellina, quella della farmacia. Sì, ce l'ho pure io. Non so dove l'ho messo, ce l'ho pure io, ma questa l'ha cazzato io. Adesso la vorrei comprare, la voglio tu raffuni. Che prega. E poi inizia il tempo brutto, un casino. Gli ho messo un po' di grasso spray adesso. Poi adesso, la prossima, questa settimana, vado in farmacia e ne compare giù un tubetto, la sopra, glielo vulcanizzo, cioè glielo... Questo qua però l'ho fatto più bene, gliel'ho anche vulcanizzato sotto, il PL, capito? Fatto un bel lavoro, là. No, ma non faccio un bocciolo lungo senza rubare, non faccio niente. Ogni abbracemma. Allora. Vabbè, comunque l'ho risolto. L'ho risolto, sono andato bene. Era già grosso dentro il filo. Il filo centrale è bello grosso, faccio che R158, Beh, ma io ho il 213, quello che a casa. Io ho l'H500, un Digmarato si chiama, ma se non mi viene. Com'è una GB di 30 metri? Ah, 6 metri ce n'è qua. Io ne ho più di 30 metri. Ah, ma è così tanto, Lu? Sono un po' arrivi, Volacchino. Sì, andava. Purtroppo abito in basso, ci vuole più capo. Se abitavo più su, ce ne voleva di meno. Cappa, no, va bene, dunque, è forte qua. Già, a voglia adesso, l'ultima cosa che devo fare, li devo mettere questa cosa e io sono a posto, non mi sappia nulla. La vasellina, adesso gli ho sfruttato quel grasso a vasellina, però questo sicuramente non dura più di tanto. Mi metto tutta la vasellina sopra, gli faccio una bella pattina. Oh, e devo rimanere per Mungucci. Sì. A voi da Garrende. Cappa. Sì, io mi sa che sono passato con la pulizia, un guardato da lì, dai. Sto portando il cane lì a... come si chiama? Qui, va. All'università, dai. Dove c'è il canile. Dove ci sono i cusi veterinari, dai. Ho capito. Ma sono passato a Milano. Cappa. Eppure mi voglio pigliare. Sto guardando qualche antenna carina. Non molto pesante. C'è quella che c'è a Marco, scusa, carina, funziona bene. C'è una bombetta con l'antenna. Sono qui con l'antenna. C'è un bel la Energy 50, ma che c'è pesante? No, è una 50, ma non è una Energy. E come no? Che mi ricordi io, no? È Energy 50, della Midland. È pesante? No, leggera. E appesa un poco. Perché il tuo antenna pesante non ne puoi mettere? Ma non ne voglio mettere antenna pesante. Al limite se non riuscite a trovare la Maria Boccio che ci va a Franco. Quella già spinge, ma pure questa, mica pure chissà che chi è già mica andè a posto. Sì, va bene anche questa qua, sì. Questa, la Lem già ha fatto una buona antenna. Sì, ho voglia. Ciao. Uia, dai lui, io ti saluto, come faccio un bel bisolino, faccio un sonno. L'ho tutta la sera dormendo e mi gioco. Ehi, altro da, mi guardo il vostro programma, è Italia 1. Ciao, buonanotte, Andro. Ciao. Ciao, buonanotte, ciao, saluta mia Marina. Ehi, saluta Sara, ciao, grazie. Chi dammi? addormenti. Sì, addormenti. Ciao. Ciao, ciao, buonanotte.